so far is lonely. Standing there, killing time. Can't commit to anything but a crime. Leaders on vacation, an open invitation. Animals, evidence. Pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside them, got friends but can't invite them. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell. Cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My love so far is lonely. Look at you, needing me. You know I'm not your friend without some greenery. Walking wearing feathers, Peter should know better. Your cover-up is caving in. Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now, begging for our help, wow. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell. Cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My love so far is lonely. There's nothing left to say. My God is gonna own me. There's nothing left to say. Snowflake. Ciao a tutte e a tutti, buonasera, bentornate e bentornati ad una nuova puntata della Mucca Libera. Allora, anche in questa trasmissione, in questa puntata, abbiamo molte notizie interessanti, sempre provenienti dal mondo animale, dalla resistenza animale e dalla questione ambientale. Voglio ricordare all'inizio della trasmissione che siamo in replica domani alle ore 11 sempre su www.radioasilo.it. Poi ricordo il canale Telegram La Mucca Libera e infine ricordo la mail della trasmissione che è lamuccalibera@autoproduzioni.net. Aspettiamo le vostre storie antispeciste e contributi e interventi per la trasmissione. Partiamo con la prima notizia e voglio partire da una bellissima notizia che ci parla di Maria Rosa. Maria Rosa è stata chiamata così una maialina che era per quasi arrivata, purtroppo per lei, però fortunatamente si è riuscita a salvare, la stavano portando al macello. Zona nella Puglia, provincia di Barletta Andrea Trani, nella strada tra Canosa e Minervino. Questa maialina è riuscita a sfuggire, è saltata dal camion e si è ritrovata per la strada, sul ciglio della strada. Da qui in poi c'è stato un intervento da parte di alcune volontarie di un'associazione che hanno impiegato qualche ora, se non sbaglio proprio 7 ore, per aiutarla, per salvarla da sotto, dove era caduta sotto la strada, ed è stata fortunatamente salvata e portata in una zona in campagna, una tra virgolette, non fattoria che si chiama di Nonno Peppino, ma comunque un luogo dove non sarà sfruttata e soprattutto dove potrà vivere ancora in libertà. Quindi la prima notizia è molto positiva, sempre dalla parte della resistenza animale, e siamo con Maria Rosa per questa sua bellissima fuga di libertà. Seconda notizia, rimaniamo in tema di allevamenti e questione di, tra gli allevamenti e libertà degli animali, perché c'è un allevamento che è abbastanza noto in Italia, che si chiamava Latte e Amore, in provincia di Arezzo, che ha chiuso. Questo allevamento è stato, se ne è parlato molto, è stato sulle cronache perché si spacciava per allevamento tra virgolette etico. Noi diciamo sempre, insomma, ben sappiamo che non esistono gli allevamenti etici, perché c'è sempre lo sfruttamento degli animali, degli altri animali, e c'è sempre la stessa catena industriale, che è quella della carne o dei derivati. Questo allevamento ha chiuso, insomma, è fallito, non è riuscito a rimanere attivo come impresa, e qui c'è stato l'intervento della rete dei santuari, rete santuari degli animali liberi, che ha fatto un appello, è intervenuta questa rete, ha fatto un appello perché ci sia appunto intervento dei vari santuari affinché possano ospitare, sono ben 500 animali, tra capre, maiali, pecore, mucche e tori. La rete dei santuari ha sottolineato nel suo comunicato appello a favore di questi animali che l'allevamento etico non esiste. Quindi, insomma, ci tenevano a sottolineare che adesso questi animali vanno salvati e vanno tenuti in libertà. Passiamo invece adesso fuori dall'Italia, negli Stati Uniti d'America, e parliamo di una notizia che da un certo punto di vista è positiva, perché ci parla della chiusura di due laboratori medici di vivisezione gestiti dal Dipartimento dell'Agricoltura, finanziati con un bel po' di dollari nel corso degli anni. In questi laboratori sono stati uccisi negli ultimi decenni in cui sono stati aperti ben 3.000 gatti per gli esperimenti, la vivisezione, esperimenti, insomma, medici. Fortunatamente c'è stato un intervento da parte di associazioni americane per la difesa dei diritti degli animali. Sono riuscite a fare queste associazioni un intervento anche grazie al contributo di alcune persone stesse che facevano capo a questi laboratori, che hanno deciso invece di collaborare e di dare informazioni affinché poi si potesse fare un intervento, una chiamata per la chiusura di questi laboratori. E soprattutto per il definanziamento, che è un po', insomma, è tutta una questione economica che porta avanti questi laboratori in genere. Infatti sono stati spesi ben 22 milioni di dollari negli ultimi anni per tenere in piedi questi luoghi, per questi luoghi di morte, che sono veramente terribili. Raccontare che cosa avviene dentro, insomma, è veramente, veramente terribile, poi, perché sono interventi appunto su questi piccoli gatti, sempre sulla loro pelle, sui loro corpi. Questi due laboratori sono stati chiusi, ma purtroppo ce ne sono ancora altri aperti. Quindi la situazione è ancora, la lotta è ancora lunga, insomma, questo mi viene da dire, perché soprattutto poi in questa fase di pandemia continuano gli esperimenti sugli animali. Noi abbiamo parlato a lungo anche rispetto all'esperimento che fa l'università di Torino e quella di Parma, quella sui macachi, insomma, purtroppo è sempre un tema molto, molto importante ancora di cui, insomma, di cui parlare. Altra notizia che voglio dare ci porta invece a parlare delle api, perché sappiamo che le api sono in via di estinzione per tutta una questione dello sfruttamento agroindustriale e dell'uso dei pesticidi nell'agroindustria, e questa è una delle l'uso dei pesticidi è una delle prime cause di morte di tutte delle varie specie di api. E questo fatto, insomma, viene affrontato, come sempre capita in queste situazioni, invece di ridurre questo uso intensivo non solo, diciamo, di pesticidi, ma in generale di tutta la questione agroindustriale, di porre un freno, un limite per salvare le specie animali, siccome il contributo che danno le api a tutta la vegetazione, alle piante con l'impollinazione e quindi anche all'agricoltura è fondamentale, stanno trovando un modo, sempre nel circuito dell'agroindustria, di risolvere questo problema, non affrontandolo ovviamente dalla parte degli animali, ma dalla parte sempre di uno sviluppo tecnologico che possa sostituire, in questo caso addirittura dal punto di vista di rimpiazzare proprio le api con dei droni, con dei droni che possano essere delle piccole api che poi vanno a fare quello che fanno in genere le api, cioè l'impollinazione della vegetazione, delle piante, e quindi risolvere così tutta la situazione. Ci sono varie ovviamente università che lavorano su questo progetto, che ci ricorda un po' una distopia, che è quella di una agroindustria che rimane ferma sullo sfruttamento animale e cerca di risolvere i problemi che poi ne derivano, che derivano dallo sfruttamento animale con un'intensificazione di questa tecnologia. E quindi questa era un'altra notizia che poi ci parla un po' sempre della questione ambientale legata allo sfruttamento. Detto questo, io farei una breve pausa musicale con una cantante che abbiamo già sentito la scorsa puntata, Emi Rap, che ci parla di solidarietà e lotta per la giustizia animale, per sociale, antispecismo. Emi. Sabes si avanzarse, que eres consciente, elegiste el camino difícil, el ir contracorriente. También sé que te sientes sola, que hay días de lucha en los que el miedo aflora y te surgen tantas dudas. ¿Servirá de algo lo que hago? Son tan pequeños mis actos, si suenan mis gritos tan bajo, que a veces siento que no cambia nada, que el mundo es una mierda, haga lo que haga. Con grandes ideales y tampoco acompañada, ¿por qué te sacrificas si el resto lo ve chorrada? No, no estás solo, no, si la lucha te acompaña. No, no estás solo, no, si es lo que te llena el alma. No, no estás sola, no, tus ideas son tus armas. No, y grita, no estás sola, no, no estás sola. Sabes que no estás sola, que hay mucho muchas como tú luchando por la misma historia. Que esta idea es de tu tiempo y no hay nada más fuerte que eso. La verdad te acompaña con todo su peso. Por justicia social, animal, por todos los derechos que quieren pisotear. Ahí estás tú, más con tu propia lucha, en tu foro interno, alimentando ese fuego interior, esa fuerza, ese esplendor. Y yo te digo gracias por abrir los ojos y por abrírmelos. Gracias por alzar a veces tu voz, aunque sea incómodo. Gracias por tu valentía y por tu arrojo. No, no estás solo, no, si la lucha te acompaña. No, no estás solo, no, si es lo que te llena el alma. No, no estás sola, no, tus ideas son tus armas. No, y grita, no estás sola, no. Torniamo in voce, io prima non ho salutato, ciao a tutte, ciao a tutti. Torniamo in voce per dare ancora delle notizie, e questa volta dalle notizie che riguardano anche l'estero torniamo invece un attimo in Italia per parlare del nostro mare. Del nostro mare perché un progetto di Greenpeace che è iniziato in realtà a fine 2019 aveva proprio l'obiettivo di monitorare lo stato, diciamo, di salute del mare italiano, e in questi giorni ha rilasciato i primi dati ufficiali. Nel 2019 nacque quindi con una stazione pilota installata nel mare dell'isola d'Elba, e durante già il primo anno di ricerca diverse altre zone aderirono, altre quattro: Portofino, in Liguria, Plemmirio in Sicilia, spero di averlo detto bene, Capo Carbonara e Tavolara Punta Coda Cavallo in Sardegna. Ultimamente, negli ultimi mesi del fine 2020, inizio 2021, a queste si sono aggiunte anche altre installazioni pilote in Puglia, in Friuli Venezia Giulia, l'isola della Siranara in Sardegna e Ventotene e Santo Stefano nel Lazio, per un totale quindi oggi di 9 aree di studio in questa rete di monitoraggio. E di queste 9 aree di studio, 8 sono delle aree marine protette. Questo ha permesso di raccogliere dei dati e di confrontarli, soprattutto per quanto riguarda le 8 aree marine protette che hanno deciso appunto di aderire al monitoraggio, per poter valutare l'impatto che il cambiamento climatico ha anche sui mari italiani. I risultati sono abbastanza sconcertanti, in quanto possiamo dire che se di cambiamento climatico se ne parla già da molto, da un bel po', poco invece si cambia invece del cambiamento che riguarda l'ambiente marino, ma nonostante se ne parli poco e se ne parli da poco tempo, non di meno i dati sono molto preoccupanti. Perché il riscaldamento globale sta causando un rapido aumento delle temperature anche del mare, e le conseguenze che ha sull'ecosistema marino sono piuttosto gravi, e molte specie, anche specie diciamo ritenute chiave, quindi fondamentali all'interno dell'equilibrio dell'ecosistema, stanno proprio morendo, mentre altre specie che meglio si adattano a un mare sempre più caldo stanno invadendo quelle zone, il che comunque significa anche in termini di biodiversità una grave perdita, e soprattutto molte delle specie che si stanno perdendo sono specie importanti per l'equilibrio marino. Quindi non a caso questo progetto si intitola Mare Caldo e sta dimostrando che l'ecosistema marino, che è già sotto pressione in modo profondo, soprattutto anche a causa non solo dell'inquinamento di plastiche e microplastiche, ma anche a causa della pesca, cosa di cui abbiamo parlato anche nella scorsa puntata parlando del documentario Seaspiracy, Quindi un ecosistema marino che è già molto sotto pressione, a questo punto è messo ancora più a rischio da quella che è il cambiamento climatico, i dati di cambiamento climatico. Ovviamente quindi la tutela delle aree più sensibili a questo diventa sempre più importante, e diventerebbe importante anche riuscire ad aiutare, diciamo, i mari a abituarsi a questo cambiamento che è già in atto, senza che ciò significhi una grave perdita all'interno dell'ecosistema. Siamo sempre in Italia e parliamo di una questione invece di cui abbiamo già avuto modo di parlare in realtà l'anno scorso nel periodo estivo. È già tanto tempo che la mucca libera va in onda e quindi ne abbiamo parlato già l'anno scorso, che è la questione di squisitamente romana dei cavalli romani che vengono utilizzati per le botticelle. Le botticelle sono queste diciamo carrozze trainate appunto da cavalli, che vengono considerate un patrimonio della tradizione romana e che quindi in quanto tali sappiamo bene sono molto presenti nel periodo soprattutto turistico estivo. Questo però comporta una difficoltà notevole per questi poveri cavalli che sono sottoposti a questo sforzo immane, e infatti anche l'anno scorso parlammo del fatto che diversi episodi piuttosto cruenti di cavalli che anche in mezzo alle persone all'improvviso svengono, restano tramortiti a terra, con anche alcuni decessi su cui poi si aprono anche delle indagini molto superficiali e che però non portano poi ad un cambiamento reale. L'anno scorso però diverse associazioni cominciarono a muoversi, tra cui capofila diciamo era anche l'OIPA, Organizzazione Italiana per la Protezione Animali, cominciarono a muoversi proprio per evitare che continuasse questo scempio, e iniziarono a raccogliere delle firme di cittadini e cittadine per l'approvazione di una delibera di iniziativa popolare. Questa delibera ovviamente doveva portare all'abolizione completa di queste botticelle, cioè appunto di queste carrozze trainate. Le associazioni raccolsero oltre 10.000 firme. Quindi è ovvio che la voglia di porre fine a questo scempio c'era da parte della città. Purtuttavia la delibera fu bocciata. Pochi mesi dopo il Campidoglio annunciò di essere finalmente, dopo anni e anni in cui se ne parlava, di essere finalmente pronto a varare un regolamento che riguardasse queste famose carrozze a cavallo. Questo regolamento, io gli ho dato un'occhiata a questo regolamento, e diversi punti erano trattati. Sicuramente non prevedeva l'abolizione delle botticelle, purtuttavia c'erano alcuni cambiamenti anche sostanziali piuttosto rilevanti, tra cui il primo era sicuramente il fatto che finalmente questi cavalli non avrebbero dovuto più percorrere le strade cementificate del centro romano, ma era possibile utilizzarli solo nei giardini, solo nelle aree verdi, solo in alcuni percorsi, per un totale di non più di 7 ore al giorno, con diversi momenti di pausa, a determinati livelli di temperatura, quindi mai oltre 30 gradi e mai nelle ore più calde, nei mesi più caldi. Si parlava anche delle cure necessarie per questi animali, cure che ovviamente sono sia specialistiche, quindi veterinari, controlli veterinari piuttosto frequenti, ma anche delle cure generiche riguardanti l'alimentazione, la cura dell'igiene, eccetera. A questo regolamento però si sono opposti i vetturini, che evidentemente lo ritenevano troppo invasivo rispetto alla loro attività di profitto, per cui hanno fatto ricorso al TAR, un ricorso al TAR che in questi giorni si è saputo è stato vinto. Il TAR ha sentenziato che il Comune di Roma, nonostante questo regolamento, non si è attrezzato abbastanza per dare vita al regolamento fattivamente nel periodo estivo, per cui sono state è stato, diciamo, imputato al Comune di Roma che non ha creato questi percorsi, non ha creato queste aree di sosta, di ristoro per i cavalli, non ha dato delle sovvenzioni ai vetturini affinché potessero creare delle vetture che rispondessero al regolamento o che potessero convertire la loro impresa in altro. E quindi, visto che i vetturini non sono stati sovvenzionati, sostanzialmente il TAR ha dato ragione ai vetturini stessi. Il regolamento quindi non è stato approvato, di fatto ci si trova nella stessa situazione di anni fa e anche dell'anno scorso, per cui questi poveri cavalli saranno di nuovo costretti con i loro zoccoli a camminare sull'asfalto bollente dell'agosto romano nel centro città pieno di turisti. Una situazione straziante che potrebbe essere risolta semplicemente cominciando a considerare gli animali non umani, non più delle specie da sfruttare in ogni modo possibile e immaginabile. Un'ultima notizia che volevo dare riguarda i cani, l'animale forse più amato dell'uomo e quello per cui più spesso ci si indigna o ci si sensibilizza. Un recente rapporto ha mostrato che i furti di cani sono molto frequenti in tutti i paesi del mondo, ma anche in Italia. Addirittura viaggiamo sulla media di 3 furti di cani al giorno. Il motivo per cui avvengono questi furti sono i motivi sono i più disparati. Molti ovviamente molto è perché i cani di razza costituiscono una fonte, un bene, una fonte di commercio e quindi di guadagno. Ma leggevo, il che mi ha anche parecchio impressionato, che molto spesso alcuni animali sono anche rubati, alcuni cani per la caccia. Così come purtroppo per i combattimenti nelle zone in cui questo avviene. L'Italia non è ovviamente l'unico paese in cui avvengono furti di cani. Sappiamo, ultimamente è diventato noto, forse l'avrete visto, il cane di Lady Gaga che era portato fuori dal suo dog sitter. Il dog sitter è stato aggredito umano perché hanno tentato di rubare il cane, anche se poi non ci sono riusciti, e quindi poi Lady Gaga, credo in dei tweet o comunque in dei suoi post sui social, ha denunciato questa questione, che nel Regno Unito è talmente tanto diffusa e sentita che addirittura il governo ha stanziato, diciamo, una task force apposita che si occupa esclusivamente del furto di cani. E se da un lato i cani, appunto, sono spesso gli animali, come dicevo all'inizio, più considerati dagli esseri umani, perché forse i più addomesticati e quelli più vicini alla vita cittadina dell'uomo o non cittadina, dall'altra parte vengono spesso usati come merce o addirittura come valvola di sfogo, come leggevo una notizia di pochi giorni fa, un uomo diciamo in un impeto di rabbia è arrivato addirittura a lanciare dal balcone il suo cane che stava già maltrattando all'interno dell'abitazione. Scusatemi, un colpo di tosse. I vicini se ne sono accorti e hanno chiesto l'intervento. L'uomo in realtà è stato denunciato per maltrattamento di animali, ma soprattutto quello che dispiace è che questo povero cagnolino è stato a lungo maltrattato, poi lanciato dal balcone e ha riportato anche delle ferite e la rottura di una zampa. Gli auguriamo di trovare affetto da animali umani o animali non umani che siano, ma che siano un po' più decenti di questo signore, diciamo. Io credo che adesso, prima delle nostre rubriche, sia il momento adatto per un altro po' di musica. Non ho idea di quale musica sarà, ma sicuramente sarà adatta. Siamo pronti per un po' di musica? Sì, mi fanno cenno di sì. Buon ascolto. Just sing, what a sweet harmony. Allora, eccoci qua, di nuovo in onda. Iniziamo con la rubrica che abbiamo inaugurato la scorsa puntata, Cucina antispecista. Abbiamo, come la volta scorsa, un ospite di eccezione che è Chef Rubbo, uno chef a cui io farei una prima domanda, prima di inoltrarci in quello che è l'inizio, i primi passi della cucina antispecista, cucina vegetale. Chiederei a Chef Rubbo innanzitutto dove prende le proteine. Ciao a tutti e tutte, non fatevi ingannare dal fatto che ho una voce molto simile a quella voce che avete ascoltato in precedenza, perché in realtà io sono Chef Rubbo, sono chef che ruba le proteine a vegan per darli a questi poveri onnivori che popolano il pianeta e che sono privi di proteine. Quindi dove prendo le proteine? La risposta è dai vegani, appunto. Prendo le proteine direttamente dai vegani, mangiandoli a morsi. Questa è la prima risposta poco seria, una domanda che in realtà è anch'essa poco seria e che ci viene spesso rivolta in modo del tutto inutile. È una domanda che sentiremo spesso e che io, insomma, mi auguro, ci auguriamo che sentirete anche voi spesso. E che almeno per l'inizio di una dieta vegan, una dieta vegetale, e infatti appunto stasera vogliamo parlare di quelli che sono i primi passi, come ci si arriva. La volta scorsa abbiamo parlato un po' di quelle che sono state, almeno per noi, le motivazioni che ci hanno portato a questa scelta, a questo tipo di alimentazione. Invece adesso vogliamo affrontare quelli che possono essere le modalità con cui si arriva a questo tipo di modo di alimentarsi, e di cui l'inizio, insomma, che cosa si può fare, se c'è una fase transitoria, se c'è un qualcosa che si mangia all'inizio. Questa è la prima domanda che faccio allo chef. Io risponderò dall'alto delle mie competenze di chef Rubbo, assolutamente non nutrizionista. Per dimostrarvi che sono chef Rubbo, penso che dopo vi lascerò qualche mio tweet idiota politico, così vi convincerete che sono proprio chef Rubbo. Allora, come cominciare? Rispondo a questa domanda innanzitutto grazie per avermela fatta, come si dice sempre, soprattutto perché sappiate che questa rubrica è totalmente improvvisata, quindi non avevo idea che mi facesse questa domanda, quindi grazie per avermela fatta, è una domanda molto intelligente. queste sono le risposte tipiche per allungare un po' il brodo. Poi darò una parte di risposta seria. La parte di risposta seria è quella che mi deriva assolutamente dalla mia esperienza personale, unita, insomma, alla lettura, diciamo, alla controinformazione sull'alimentazione che io ho scelto di fare in questi anni in cui ho scelto di diventare vegan. E il mio primo suggerimento è, per chi vuole cominciare ad approcciare un'alimentazione vegan, è di iniziare con impegno, senza però sensi di colpa rispetto ad eventuali ricadute o altro sull'essere onnivori, perché le ricadute capitano nei primi tempi, fino a che non ci si abitua un po', non si sa che mangiare fuori casa e quindi finisci per prenderti la pizzetta con la mozzarella perché è l'unica che trovi disponibile. Non fa niente, i primi tempi capita, l'importante è iniziare questo percorso e iniziare sperimentando gusti e sapori assolutamente nuovi, perché a volte ci si fossilizza su un modo di alimentarsi molto standard, soprattutto quando si è onnivori, e invece la cosa bella dell'alimentazione è anche riprovare anche qualcosa che prima non piaceva, ma a distanza di tempo può risultare gradito. Dal punto di vista diciamo fisico, il mio suggerimento è quello di farlo però gradualmente. Io venivo da un'alimentazione già vegetariana da un bel po', da decenni, e nonostante questo ho scelto, e credo di aver fatto bene, di passare ad un'alimentazione totalmente vegetale, comunque nel giro di un anno circa, eliminando poco a poco tutti i derivati animali, che non sembrano non essere tantissimi, perché poi alla fine si tratta di latte e uova sostanzialmente come derivati animali. Un po' si può considerare anche il miele, insomma, rientrante in questa categoria, però sembrano non tantissimi. In realtà significa veramente, tra virgolette, molto tra virgolette, rinunciare a tanta parte dell'alimentazione. Anche dell'alimentazione dal punto di vista dei prodotti industriali. Se si è abituati a cibarsi di prodotti industriali, praticamente il latte e le uova sono ovunque, anche dove non lo immaginereste mai: i cracker, i grissini, le patatine, cioè davvero delle cose che uno non si aspetterebbe mai che non siano vegan, invece non sono vegan, perché alla fine il latte è un prodotto industriale. Che proprio a causa degli allevamenti industriali che sfruttano tantissimo questi poveri animali, queste povere mucche, costa pochissimo. Quindi lo buttano un po' come ingrediente in quasi tutti i prodotti industriali, anche laddove non ha proprio senso dal punto di vista del gusto o non ce n'è proprio necessità, un po' per aumentare la resa del prodotto, visto che costa così poco. A volte lo utilizzano come latte in polvere, latte condensato, sotto forma anche di addensante di alcune preparazioni, e quindi è davvero ovunque. Quindi, sebbene latte e uova possano sembrare una piccola parte della nostra alimentazione, in realtà poi soprattutto in Italia, soprattutto al sud, nelle nostre zone viviamo di mozzarella e formaggi, è una grande parte dell'alimentazione. Quindi io suggerisco comunque di privarsene molto, tra virgolette, però dandosi il tempo di abituare il nostro corpo e la nostra mente a questo passaggio. Io dico volutamente il nostro corpo e la nostra mente perché appunto la nostra alimentazione è molto legata a questi prodotti dei derivati animali. A volte mi capita di pensare molto più di quanto non sia legata al pesce. Non so, ad esempio, il pesce lo mangiamo solo come pesce, poi tutto sommato, però appunto banalmente le uova fanno parte di quasi qualsiasi ricetta. Quindi ci si è molto la nostra mente è molto più abituata al consumo di latte e uova. E d'altra parte, anche perché in qualche modo nell'immaginario il latte così bianco, così liquido, potrà mai fare male, quindi ne abusiamo davvero. E d'altra parte, io credo che anche il nostro corpo abbia bisogno di un periodo di tempo, perché questi prodotti, che tra l'altro ci arrivano anche in delle modalità appunto industriali, raffinate o altro, sono veramente anche molto dannosi per il nostro organismo. E non lo dico solo perché sono vegana, banalmente la malattia del nostro secolo, no? Il cancro o l'infarto, alle persone infartuate o alle persone che purtroppo scoprono di avere un tumore, immediatamente ormai i medici ti dicono non consumare più il latte, non consumare più i latticini. Quindi è evidente che creano il nostro corpo uno stato di infiammazione in realtà perenne in vari punti del nostro corpo. E i punti io ad esempio banalmente avevo una sinusite ormai fissa, perenne, insomma, con un accumulo di muco in una determinata zona del corpo, la zona credo sia la fronte occipitale, insomma, quella zona lì, che era visibile anche alle TAC, alle radiografie, proprio come una macchia. E nel momento in cui sono diventata vegan, poi questa sinusite, dopo un po', non immediatamente, ma dopo un po', è scomparsa. Per cui è evidente che creano uno stato da un lato, di infiammazione del nostro corpo e di accumuli infiammatori, e dall'altro però è evidente che creano anche una sorta, se vogliamo, di dipendenza. Quindi secondo me privarsene da sera alla mattina può rendere troppo ardua l'impresa, troppo difficile, e di conseguenza ci potrebbe portare ad abbandonarla. Quindi queste sono le accortezze serie che dico. che vi dico. D'altra parte, la difficoltà maggiore io penso che siano poi proprio tutto il clima sociale attorno che si viene a creare, familiare, sociale in generale, che rende davvero difficile il passaggio, perché appunto le domande più frequenti sono: dove prendi le proteine? Abbiamo detto. Poi c'è la B12, che pure è un altro tema interessante, anche perché la prossima canzone è di un cantante che si chiama proprio B12, quindi lo anticipiamo. Sì, la B12, le proteine, poi ti sentirai senza energia, sarai sempre stanco, eccetera, eccetera. Quindi il contorno sociale ti rende davvero difficile. E poi, almeno nelle zone, io non dico nelle grandi città, ma nelle zone più piccole, nelle realtà più piccole, soprattutto più al sud che al nord, dove magari c'è meno turismo, non esiste al di fuori della propria piccola cucina una cultura vegan, per cui tu puoi tranquillamente andare a mangiare la pizza con i tuoi amici senza che ti facciano un sacco di problemi. Io ancora oggi, se chiedo solamente diciamo la pizza con un po' di pomodoro e basilico, mi viene detto: vabbè, ma che vuoi? Ma allora vuoi una focaccia? Cioè, che vuoi? Devo per forza prendere quella lì con l'aglio e le acciughe, perché qui si usa così, oppure devo prendere la margherita? Cioè, non esiste. Mi sono trovata di fronte delle situazioni in cui il pizzaiolo si è proprio rifiutato di farmi la pizza come la volevo io. Figuriamoci chiedergli magari una rossa con le verdure o qualcos'altro, perché ci sarebbero milioni di combinazioni possibili con le verdure che renderebbero una pizza gustosissima, però è veramente impossibile qui chiederle. Quindi anche il contesto, nel momento in cui sei fuori casa, la difficoltà di non riuscire ad alimentarti insieme agli altri o diciamo anche all'improvviso, se hai fame, è una difficoltà reale. Quindi anche questi sono un po' un percorso ad ostacoli. Io direi di passare a un'altra piccola domanda, se ce l'hai. Sì, anche perché pensavo al discorso pure dei formaggi, che contengono praticamente oppioidi, cioè nel senso che creano proprio dipendenza. E una cosa su cui ho riflettuto nel passaggio a un'alimentazione vegan è questo legame che poi ci sta anche tra l'assunzione di formaggi, legato anche all'alcol, e si crea questo connubio che uno, insomma, arriva ad alimentarsi, esce la sera, il vino, formaggio, insomma. Poi molte persone che ho sentito nel corso degli anni mi hanno sempre detto: non riesco a rinunciare a questa cosa, in particolare appunto i formaggi, perché diventa una dipendenza e si assume il gusto come qualcosa di irrinunciabile. Quando poi, insomma, secondo me la questione del gusto è anche molto relativa. Non so tu cosa ne pensi, perché penso che alla fine, quando cambia anche il tipo di alimentazione che hai, cambia anche il modo in cui senti di nuovo i gusti. Sì, anche riguardo i gusti ci sarebbe tutto, diciamo, un'altra storia da aprire, perché in realtà io credo che, visto che siamo invasi da prodotti industriali o simili industriali, in realtà anche il gusto dei formaggi e della carne, ma che gusto è? Cioè, nel senso che i formaggi stessi alla fine è un gusto molto, molto sapido, molto speziato, cioè molto salato. Questi sono i gusti della carne o dei formaggi. Tant'è vero che non a caso tantissimi prodotti vegan industriali riescono ormai a riprodurre quasi perfettamente quei determinati sapori. Sono mesi ormai che il nostro mercato è invaso, ad esempio, da burger vegetali che hanno l'aspetto, il sapore, la consistenza effettivamente della carne, perché è evidente che il sapore di un burger che noi compriamo in realtà è un sapore che è dato più che altro da tutto ciò che viene aggiunto alla carne, dalle spezie, dal sale, ed è possibile quindi ormai praticamente riprodurlo In modo tale che un onnivoro, sono state fatte molte prove, tanti onnivori non si rendono proprio conto che stanno mangiando qualcosa che non sia carne, anche perché i trucchi dal punto di vista industriale alimentare sono tanti, da riprodurre il sanguinamento, diciamo, del burger grazie al colore della barbabietola rossa, del succo di barbabietola e così via, per poter renderlo identico. Quindi questo che cosa significa? Significa che in realtà la maggior parte dei prodotti di origine animale hanno un gusto che è molto standardizzato, è un gusto che riproducibile tranquillamente da spezie, penso ai sapori non immagineremmo mai, per esempio mischiando bene aglio in polvere, cipolla in polvere, sale, come si riesce ad ottenere con altri pochi altri ingredienti, per esempio qualcosa che è molto simile a un parmigiano. Oppure appunto il burger di cui parlavo prima. Questo che cosa significa? Che da un certo punto di vista noi ci inganniamo pensando che una cosa è saporita solamente se c'è il pezzetto di pancetta o se c'è la grande grattugiata di pecorino sopra, perché in realtà si tratta sostanzialmente di quel poco di cui parlavo prima, sale e spezie. D'altra parte, abusarne nel modo in cui abusiamo noi, almeno io l'ho provato sulla mia pelle, per anni aveva reso il mio palato molto meno sensibile invece ai gusti che riesco ad apprezzare adesso. Ad esempio, mi viene in mente che un paio di giorni fa ho fatto una giornata di riconoscimento di erbe commestibili, per cui insieme ad altre persone ho provato ad assaggiare delle erbe, e io ero effettivamente, forse se non l'unica, sicuramente molto più pronta rispetto ad altre persone onnivore a riconoscere il sapore di quella di quelle che mi dava quell'erba, perché evidentemente il mio palato è molto più sensibile rispetto al palato di un onnivoro, che alla fine appunto si standardizza molto su quei livelli di sapidità e non riesce poi più ad apprezzare molto, molto altro. Spero di aver risposto alla tua domanda. Sì, sicuramente. Magari ridiamo la mail per le domande su questo tema, se qualcuno o qualcuna vuole scriverci e vuole scrivere allo chef per fare qualche domanda anche relativa a quello che abbiamo detto questa sera. Ricette, insomma, ci sta un mondo di cui parlare. La mucca libera @autoproduzioni.net. Insomma, parleremo anche la prossima puntata di qualche cosa ancora più nello specifico. Va bene, adesso ci ascoltiamo, appunto, prima l'ho annunciato, B12 con Antispecista. Empieza la revuelta, encapuchadas saltan la verja del boicot en masa a la acción directa, saboteando coches, escopetas. Empieza la banda de la misericordia, Ron y compañía haciendo historia, actos heroicos contra la cacería, intentando salvar a la mayoría de zorros en la bahía de Guas, frenar estas sangrientas matanzas. 2 años de prisión, pero esto avanza, su represión nunca nos amansa, nos da más motivos contra esta barbarie. Si no eres su voz, no lo será nadie. Empatizar con ellas, sentir en tus carnes que ese filete tenía vida antes. Irrumpen en centros de explotación, recogiendo información para su difusión. Son miembros de las ligas por la liberación, que tratan de mostrar a la población la vivisección y otras brutales torturas, hasta que cometen un error que perdura. Esperar del Estado un cambio, una ayuda, el bienestarismo, maldita postura que perpetúa el holocausto actual. Entonces surgen los grupos del ALF, lucha horizontal desde cualquier corral hasta la más grande granja industrial, y es normal. o está normalizado el antropocentrismo que nos ha criado, no te lo has planteado, y con tu dinero mis hermanas hoy marchan al matadero. Espero que un día no haya santuarios, pero en el presente es algo necesario ser voluntario en refugios solidarios. Es sin duda un acto revolucionario encerrar en un acuario. Tilikum se defiende demostrando que es indomesticable, la libertad no es negociable, por eso nos temen, inspirados por el libro R209, y en el muelle pesqueros tendrán su condena, culpables de vender cuerpos como cena. La tienda peletera, joder, por fin cierra, llevan 30 arreglos en su cristalera. La miel para la colmena, la leche para el ternero, amor para el cerdo al igual que al perro, que no es una mascota sino un compañero. Adopta jamás, compres en criaderos. Leo en contrainfo textos que narran células que actúan, se pasan de la raya con ganas a gallas, pillan las cizallas, rescatan gallinas, atraviesan las vallas. Ya sé que lo mejor es la pedagogía, pero grita unida toda la jauría. No descansaremos hasta que llegue el día en que toda jaula quede vacía. El activista y el Phillips dejando un legado, su asesinato no quedará en vano. Somos antiespecistas y lo tenemos claro, más vale viento volando que pájaro en mano. Marcado por lo que expresa ese mural, duramente racional, sin correa ni bozal, en tu nevera encerraste un animal muerto y a trocitos, se hace menos visual. Torniamo in voce dopo questo brano che mi è piaciuto molto. Immagino che il cantante si chiami B12 non a caso, parleremo anche della B12, o no, aiuto, spero di no, perché la B12 è un tema molto complicato. Comunque torniamo invece serio e passiamo alla rubrica consueta, che è letture in visioni antispeciste. Quest'oggi vi propongo io una visione, ve la propongo non a caso perché ho letto che alla 19ª edizione dell'Ischia Global Film and Music Festival, che è quindi un festival che si tiene da parecchio, alla 19ª edizione, che si svolgerà ovviamente ad Ischia dal 18 al 25 luglio, sarà premiato proprio questo film. Quest'anno infatti questo festival è centrato sul, è dedicato interamente al mare, all'ambiente in genere. Ci sono diverse proiezioni, non ho ben capito quale sarà il programma, però ho visto che nell'elenco compariva anche proprio Seaspiracy di Alita Brizzi, di cui abbiamo parlato, il documentario su Netflix di cui abbiamo parlato nella puntata scorsa, e che secondo me ritornerà ancora qualche volta nei nostri discorsi perché è un documentario fondamentale. E oltre queste proiezioni ci sarà assegnato anche questo premio, il cui titolo è Social Cinema Award, e sarà assegnato a questo altro documentario dal titolo, sempre di Netflix in realtà, dal titolo My Octopus Teacher, che ovviamente in italiano ha un titolo banalissimo alla film Disney, ossia Il mio amico in fondo al mare. Sembra proprio di vedere Nemo, ma in realtà è un documentario molto molto bello. Gli autori sono Pippa Ehrlich, non ridere, James Reed e Craig Foster, e parla dell'amicizia tra un fotografo subacqueo e un polpo, amicizia che nasce sostanzialmente per caso, perché questo fotografo subacqueo ha perso un po' la voglia di continuare a lavorare, nel frattempo sta subendo anche un deterioramento delle relazioni sociali, familiari che vive, e quindi inizia a dedicarsi un po' più alle immersioni, incontra, è un'immersione tra l'altro senza bombola, ed incontra questo polpo. Incontra questo polpo che lo affascina tantissimo e comincia a pensare di volerlo osservare. Dall'osservazione poi mano a mano nasce una vera e propria amicizia. È un documentario che io farei vedere anche a bambini e bambine, perché dal punto di vista dello stile, della regia, della fotografia, è veramente bellissimo. Riprende tutto il mondo colorato sottomarino ed è, secondo me, per i bambini e per le bambine di un fascino estremo. e che ha dei momenti toccantissimi, come può essere un documentario che parli di un'amicizia. Ad esempio, mi viene in mente come un momento molto bello che è come si sviluppa il primo contatto proprio fisico tra questo fotografo e il polpo, che mi ha ricordato un po' anche il Piccolo Principe, perché con una certa intelligenza il fotografo inizia a pensare che potrebbe spaventare l'animale, che l'animale è spaventato da lui perché non lo conosce, e quindi comincia solo ad andarlo a trovare, mettendosi a distanza senza fare niente, così giorno dopo giorno dopo giorno. A un certo punto è il polpo stesso che è incuriosito, che chiaramente è incuriosito da questa presenza, che inizia a capire che non c'è pericolo che arriva da quella presenza, e quindi si avvicina fino a che non gli pone proprio sulla mano un tentacolo. È un momento toccantissimo perché appunto è il primo contatto fisico di un'amicizia che sancisce proprio un'amicizia che sta nascendo e che, come tutte le amicizie, in qualche modo il contatto fisico, no, rafforza, stabilisce un legame più profondo a più livelli. E questi sono aspetti molto belli del documentario che a tratti mi è sembrato appunto anche antispecista, perché disegna questa nascita dell'amicizia non come un qualcosa di eccezionale, ma come un qualcosa di possibile e di reale. Così come fortemente antispecista mi è sembrato anche il tratto. L'accento posto dal fotografo sul fatto che la nascita di questa amicizia finisce per cambiare un po' anche le sue altre relazioni, le relazioni in questo caso con gli animali umani. E questi tratti sono molto belli. Non è però di base un documentario, evidentemente con una filosofia antispecista. Perché, e questo è evidente in alcuni passaggi, tra cui uno che mi ha colpito molto, in cui il polpo sta per essere attaccato da dei predatori, squali, eccetera. E lui, sebbene emotivamente sia preso da questa cosa e vorrebbe intervenire, perché tra l'altro all'inizio sono dei predatori più piccoli o squali, quindi potrebbe intervenire anche con una certa facilità allontanandoli, non lo fa però perché sostiene che così sarebbe andato ad alterare la natura, diciamo, in qualche modo. Pensiero che non avrebbe mai formulato questo fotografo se avesse visto un uomo in pericolo di morte attaccato da un altro, non avrebbe mai pensato così, metto a repentaglio lo sviluppo naturale delle cose, e invece lo pensa per un polpo che però gli ha dato la sua amicizia e con lui è stato leale. In ogni caso io ve ne consiglio la visione, tu lo vedrai. Sicuramente lo vedrò. Comunque un saluto a tutte e a tutti, grazie per averci ascoltato anche questa sera. Vi raccomando il canale Telegram, la Mucca Libera, l'email la ricordo ancora, la Mucca Libera @autoproduzioni.net e la replica martedì alle 11. Un saluto a tutte e a tutti. Lucifer is lonely, standing there, killing time. Can't commit to anything but a crime. Leaders on vacation, an open invitation. Animals, evidence. Pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside them, got friends but can't invite them. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell, 'cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise, and heaven's out of sight,